dietro l'angolo, gioie che non ti appartengono. Questo tempo inconciliabile gioca contro di te. Ecco come si finisce poi, inchiodati a una finestra noi, spettatori malinconici di felicità impossibili. Tanti viaggi rimandati e già valigie vuote da un'eternità. Quel dolore che non sai cos'è, solo lui non ti abbandonerà mai, oh mai. È un rifugio quel malessere, troppa fretta in quel tuo crescere. Non si fanno più miracoli adesso, adesso non più. Non dar retta a quelle bambole, sa fare con le anime. Ti darei gli occhi miei per vedere ciò che non vedi, l'energia, l'allegria per strapparti ancora sorrisi. Dir di sì, sempre sì, e riuscire a farti volare dove vuoi, dove sai, senza più quel peso sul cuore. Le nuvole, quell'inverno che ti fa male, curarti le ferite, poi qualche dente in più per mangiare. E poi vederti ridere, e poi vederti correre ancora. Dimentica, c'è chi dimentica distrattamente un fiore, una domenica. E poi giardini che nessuno sa, si respira l'inutilità, c'è rispetto, grande pulizia, è quasi follia. Non sai com'è bello stringerti, ritrovarsi qui a difenderti, e vestirti e pettinarti, sì, e sussurrarti non arrenderti. Nei giardini che nessuno sa, quanta vita si trascina qua, solo acciacchi, piccole anemie, siamo niente senza fantasie. Sorreggili, aiutali, ti prego non lasciarli cadere. Esili, fragili, non negargli un po' del tuo amore. Lasciarli adesso no, che non li sorprenda l'amore.